La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica. Buonasera, buongiorno. Madonna, come sono messa male oggi. Buongiorno e ben trovati alla seconda puntata della rassegna stampa del Wombat, nuovo spazio informativo di Radio Wombat. Oggi è il 22, che giorno è? 22, sì, lunedì 22 gennaio 2018 e iniziamo con un bel po' di ritardo, ma d'altra parte la mia forma fisica purtroppo è quella che è, ho fatto ritardare tutti i miei compari di conseguenza. Iniziamo questa rassegna stampa della seconda settimana di gennaio e quindi vi abbiamo come di consueto, consueto non tantissimo perché è la seconda puntata, come vi dicevo, di questa nuova trasmissione, però la trasmissione nostra intende mettere insieme un po' di articoli, notizie, informazioni delle cose che sono successe in questa settimana. Quindi vi abbiamo scelto un po' di cosette, sicuramente non siamo esaustivi, sicuramente sarà un'infarinatura, saranno successe molte più cose e sarete tutti delusi perché volevate sentir parlare, non lo so, del principe del Galles, di cosa faceva, di cose più interessanti, ma noi vi abbiamo scelto invece delle altre cose e fatevele andare bene. In particolare vi facciamo un minimo riassunto di quello che stiamo per andare a leggervi. Parleremo dello sgombero della Crepa, la nuova occupazione fiorentina, ahimè di brevissima durata perché è stata sgomberata dopo pochi giorni, e quindi vi racconteremo quello che è successo. Poi parleremo dell'abbandono del progetto dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, una, devo dire, probabilmente inaspettata, comunque bellissima vittoria della SAD e dei movimenti contro l'aeroporto, di cui è importante parlare e dare conto. Poi vi parleremo a Genova, torneremo quindi in Italia, l'aggressione di Casa Pound e a un gruppo di antifascisti, finita a coltellate, quindi insomma purtroppo aggressione piuttosto pesante, e vi racconteremo un po' quello che gli antifascisti genovesi hanno da dire sull'accaduto. E poi andremo invece, torneremo un po' fuori dall'Italia e andremo a parlare dell'aggressione di Erdogan a Afrin, e quindi andremo a vedere un po' cosa sta succedendo da quelle parti. E poi due veloci inserti, uno sulla Tunisia, cosa sta succedendo in Tunisia, proteste e scontri, e in Cina una notizia interessante su diciamo nuove espansioni urbanistiche e con tutto quello che si portano dietro tra smog, inquinamento e devastazione ambientale. In Cina, appunto, lo vedremo tra i villaggi e gli ambienti naturali. Quindi, detto ciò, vi abbiamo fatto sentire la nostra micro sigla che era poi Teresa di Buscaglione, ma vabbè, una bieca scusa perché parlava di giornali, ma non so se rimarrà la nostra sigla per sempre, forse no. E ora andiamo subito a parlare, come vi dicevo, della crepa, dello sgombero che c'è stato della nuova occupazione. Dunque, vediamo un po' perché c'ho mille cose aperte qui e devo ritrovare quella giusta, che ovviamente non trovo, chissà qual è. No, chissà, va bene, la cerco qui, scusate, chiaramente è un po' così. Allora, sullo sgombero della Crepa abbiamo da farvi ascoltare una corrispondenza proprio la mattina dello sgombero, raccolta da Radio Onda d'Urto, dagli amichetti della radio sorella di Radio Onda d'Urto, E quindi vi andremo a far ascoltare questo piccolo intervento, una piccola intervista proprio raccolta la stessa mattina dello sgombero. Però leggiamo prima un piccolo riepilogo di quello che scrive proprio Radio Onda d'Urto per raccontare lo sgombero. Da questa mattina, giovedì 18 gennaio, è in corso lo sgombero della neo-occupazione La Crepa. Era da 2 settimane che lo stabile aveva ritrovato nuovamente la luce grazie a un gruppo di ragazzi e ragazze che studiano, vivono e lavorano a Firenze. E qui già si potrebbe dire, è importante sottolineare questa cosa perché purtroppo lo vedremo, sono stati dati molti fogli di via da Firenze anche a persone che appunto studiavano e lavoravano a Firenze e vabbè, ne parleremo più in là. Per queste strade qualcuno di noi ci è cresciuto e conosce bene la noia quotidiana dei giovani sulle panchine dei parchetti o dei vecchietti al circolino, così come conosce la solidarietà e i rapporti umani con il gelataio e con il panettiere, scrivono in un comunicato gli occupanti. In questo quartiere esiste ancora una coscienza popolare e comunitaria tangibile che ad oggi è sempre più rara. Le altre zone di questa città vengono riqualificate e gentrificate fino a perdere la propria identità. Qui invece si respira ancora un'aria di umanità, di semplicità, ancora attaccata a vecchie tradizioni, nel bene e nel male. L'occupazione, La Crepa, aveva in cantiere diversi progetti e seminari, ma da questo giovedì 18 gennaio, invece, fin dal primo mattino, si sono presentati alla porta dello stabile di Via Foggini 18 all'Isolotto, Firenze appunto, Digos e forze dell'ordine per attuare lo sgombero. E ora c'è l'intervista a Mattia, uno dei ragazzi dell'occupazione della Crepa. E appunto sì, durante questa intervista si trovava all'interno dello stabile mentre veniva sgomberato e quindi ci ascoltiamo un pochino quello che ci racconta. Radio Onda d'Urto, sgombero in corso in questo momento a Firenze dell'occupazione La Crepa. Abbiamo ora in collegamento telefonico Mattia che, se non sbaglio, è in questo momento all'interno dello stabile, giusto Mattia? Sì, sono qua dentro, ci stanno facendo uscire più o meno in questi minuti. Ok, quindi siete rimasti dentro. Sì, siamo una decina qui a uno dei piani superiori dell'edificio, mentre due persone stanno resistendo in questo momento sul tetto. Ora non so se vi interessa qualche dettaglio tecnico. Ah, niente, comunque c'è, cioè, stamattina alle 9 c'è stata un'irruzione della Digos dentro il posto. Anche in maniera abbastanza decisa, ci hanno sfondato con una porta del tetto con un martellone. E niente, in questo momento comunque fuori si sta raggruppando un presidio, quindi invito chiunque si trovi nelle vicinanze di Firenze a raggiungere il blockbuster di Viale Talenti e Ecco, niente. praticamente lo sgombero quando è che è iniziato e come si sta, cioè è ancora in corso, nel senso che state riuscendo un po' a rallentare le tempistiche? Sì, lo sgombero è ancora in corso, cioè anche se sono entrati molto velocemente dentro l'edificio, perché comunque l'edificio è molto grosso ed era occupato da appena un paio di settimane, quindi ancora non era barricato proprio alla perfezione. Però due ragazzi sono stati abbastanza svelti da riuscire a raggiungere il tetto e ancora sono lì, non sono stati fatti tentativi quasi di farli scendere, se non i soliti ricatti del genere, se non li fate scendere vi arrestiamo, vi buttiamo via la roba. Ovviamente come in ogni sgombero sono scomparse subito cose tipo soldi dalla cassa, Ma stanno andando Mattia, così ti male. chiederei anche, dato che è un'occupazione direi giovanissima perché dura da 2 settimane, di raccontarci un po' come mai questo gruppo di ragazzi si è riunito e ha deciso di occupare questo posto dismesso. Ma cioè, noi siamo un gruppo di ragazzi che più o meno hanno sempre frequentato i movimenti fiorentini, diciamo tutti provenienti da situazioni abbastanza diverse, gruppi abbastanza diversi, però appunto sentivamo il bisogno in questo momento di dare, comunque aprire un nuovo spazio a Firenze, perché quelli che c'erano ci sembravano insufficienti, ci sembrava anche che la pratica dell'occupazione fosse stata un po' messa da parte come pratica di lotta, e anche in seguito ai comunque ai recenti decreti, alle diciamo, la recente energia con cui hanno iniziato ad affrontare gli sgomberi, quindi certo, sentivamo il bisogno di aprire questa cosa, ecco, aprire questo spazio. E in queste settimane quali sono state le vostre linee di percorsi, le vostre attività culturali che avete fatto in queste settimane? Ma cioè, comunque, scusa un attimo, Sì, sì. Ma io scusa, devo riattaccare perché ci stanno facendo scendere. Va comunque bene. Comunque iniziative, proiezioni, cultura, socialità. Abbiamo appena sentito Mattia, uno dei ragazzi dell'occupazione La Crepa di Firenze, che durante l'intervista, come avete sentito, era proprio all'interno dello stabile mentre veniva sgomberato. Ecco, e questa appunto era l'intervista fatta da Radio Onda d'Urto, come dicevamo, e possiamo aggiungere un po' di racconti da il presidio, sì, che è stato fatto in solidarietà sul momento contro lo sgombero, chiaramente presidio ovviamente organizzato al volo in 448, quindi con i numeri delle persone che sono riuscite ad arrivare al volo, e che però è stato piuttosto teso, ci dicevamo. La scorsa mattina io sono microfono che non va tanto, vai, esatto. Ci siamo. Sì, appunto, io sono una delle poche decine di persone che si è trovata lì quella mattina ad accorrere, portare solidarietà a questa occupazione sotto sgombero in un clima, sì, bello particolare. Il clima che ci vogliono far respirare in questo periodo sicuramente è questo, rispetto a queste situazioni in città, e quello appunto che si è trovato è stata una polizia estremamente tesa, estremamente aggressiva e provocatoria, sia con gli occupanti stessi che con noi, anche su noi appunto esterni, e cercavamo di aiutarli a portare fuori le cose, che abbiamo improvvisato appunto un presidio di fronte, cercare di parlare con le persone. A volte ti hanno trovati pure di fronte a Digos, personaggi del genere che si mettono in mezzo nel poter appunto interagire con delle persone e ti vengono a domandare cosa sta succedendo e non vogliono, e te li racconti la loro versione. Insomma, un clima estremamente teso da questo punto di vista, volutamente teso da parte loro, è stata una roba estremamente provocatoria. Il presidio è andato avanti dalla mattina, poi si è fatto un pranzo, dal pomeriggio per fortuna sono arrivati altri compagni che appunto ha messo la musica per farsi sentire da quelli sul tetto, perché io penso sia una cosa sempre importante riuscire a comunicare e a portare solidarietà a chi sta continuando la resistenza, perché lo sgombero si è svolto appunto dalla mattina, hanno portato via le 9 persone che erano ai piani di sotto, le hanno portate in questura e appunto 2 persone sono rimaste sul tetto, dove sono rimasti fino al tardo pomeriggio, quando stremati dal freddo e dalla sete e dalla fame, perché non avevano niente, non avevano manco i giubbotti, sono scese. E appunto il presidio è andato avanti fino al momento in cui sono scese queste persone, e poi niente, si è abbandonato la postazione vista la sconfitta sul campo. Ahimè, e sì. Il bilancio di questa giornata è stato appunto, come accennato prima, della denuncia di tutti gli occupanti che erano all'interno dello stabile, che tra l'altro inizialmente quelli portati via, i primi 9, erano convinti, anche per ingenuità, comunque perché gli era stato detto dalla polizia che li stava appunto portando in questura, e li stessero denunciando solo per occupazione, perché comunque è stata la loro, è stata una resistenza assolutamente passiva, cioè semplicemente hanno aspettato che di essere portati via, che entrassero in casa. E semplicemente questo. In realtà sono stati denunciati anche per resistenza e per danneggiamento tra l'altro di un posto che appunto diventerà un Burger King, ma è una struttura che dovranno buttare giù prima di fare un Burger King, quindi già questo è anche abbastanza ridicolo. Quelli sul tetto uguale, danneggiamento, resistenza e occupazione, che è già la resistenza per chi sta sul tetto, è già più immaginabile, appunto una di quelle pratiche che si sa fa parte della difesa degli spazi e viene portata avanti così, sta più nel gioco. E appunto i fogli di via per tutti quelli non residenti a Firenze, che è una misura semi nuova, diciamo, per questa città, perché anni fa era già stata usata, ma recentemente rispetto a questi tipi di percorsi non era mai stata usata. Sì, misura tra l'altro, vabbè, del meraviglioso codice penale che ci ritroviamo derivante ancora dal ventennio fascista, per chi fosse convinto che viviamo in una splendida democrazia, e piuttosto pesante per persone, ora vabbè, è pesante per chiunque, ma per persone che abitano, che hanno la residenza a pochi chilometri da Firenze, perché persone residenti a Prato o nella provincia, insomma, piuttosto vicini poi di fatto, poter ritrovarsi di punto in bianco a non poter frequentare la città dove poi di fatto si vive, perché tu puoi avere la residenza in un luogo molto vicino, ma si sa che questa città ormai è espansa in modo tale che tu magari vivi lontano, ma la tua vita vera sta in città, perché boh, cioè è il segreto di Pulcinella. Tutti sappiamo che oltretutto costano talmente care le case a Firenze che quasi nessuno ormai può permettersi di abitare in Piazza Duomo a Firenze. Quindi grazie tante, sì, magari vivo lontano, però di fatto la mia vita vera la faccio in città. Quindi di punto in bianco trovarsi allontanati al confino effettivamente è una misura... sì, non nuova, nel senso che la stanno usando sempre più spesso anche nel resto d'Italia, misura veramente pesante e oltretutto odiosa, perché ti impedisce di vivere di fatto. Sì, sicuramente, una misura retro da certi punti di vista e innovativa appunto per quello, sì. Il nuovo modello della gestione dell'ordine pubblico, evidentemente usato, abusato in tutta Italia, infatti cioè, negli ultimi mesi, anni abbiamo visto questo dispositivo utilizzato su manifestazioni, su eventi di vario tipo, addirittura persone scendono da un treno si vedono dare un foglio di via, appunto, che poi solitamente sono fogli di via che sono per 3 anni, cioè un anno al minimo, nel loro caso sono 3 anni di foglio di via. Sì, molto spesso vengono usati anche gli obblighi di dimora, abbiamo visto molto di recente, un po' meno a Firenze l'abbiamo visto, ma insomma nel resto d'Italia è una pratica molto abusata, l'obbligo di dimora è ancora più pesante come restrizioni, quindi insomma che bello, evviva. Basta repressione. Basta. Musica. Infatti, mettiamo un po' di musica e abbiamo scelto per commentare un po' la sfiga della crepa, però qualcosa di invece un po' più positivo, che è il sogno collettivo di Rancore. Un coraggio in quella misera realtà di chi ha venduto per 2 soldi la sua umana identità, di chi ha venduto per 2 soldi la sua umana identità. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh quando erano uno, era solo di 100. Ecco qua. Allora, rancore, sogno collettivo e sì, in effetti parlava di uno sgombero, non è che proprio era rose e fiori, ma d'altra parte era esattamente quello di cui vi abbiamo appena parlato. Cambiamo argomento, arriviamo a... non abbiamo il gong come l'altra, gli altri amici della rassegna stampa, possiamo farlo gong, però no. E quindi cambiamo argomento, passiamo a, come vi dicevamo all'inizio, la notizia che è stata data il 17 gennaio, sì, se non sbaglio, sì, 17 gennaio è stata data la notizia che il governo abbandona il progetto dell'aeroporto di Nantes, ovvero Notre Dame des Landes, e grossissima vittoria. Ci andiamo a leggere qualche articolo sia di come è stata trattata la notizia qui in Italia, non dai quotidiani mainstream che ci interessano il giusto, anzi forse per niente, ma da siti di controinformazione a noi più affini, e poi ci andiamo a leggere invece cosa hanno detto proprio i movimenti di difesa del territorio di Nantes e di lotta contro la costruzione di questo aeroporto, quindi della SAD e gli altri movimenti. Allora, partiamo da InfoOut, che il 17 gennaio titola Notre Dame des Landes Victoire. Colpo di scena in Francia, il governo Macron decide di abbandonare il progetto del mega aeroporto del Grand Ouest, ovvero quello di Notre-Dame-des-Landes, ormai in dibattito da 50 anni. Il primo ministro francese Edouard Philippe ha dichiarato oggi che non ci sono le condizioni per continuare il progetto dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes. Un tale progetto di pianificazione che strutturerà il territorio per un secolo non può farsi in un contesto di opposizione esacerbate tra due parti uguali della popolazione. Quasi uguali, scusate. Protestano politici di destra e sinistra, denunciando una capitolazione davanti alla violenza o l'abbandono dello Stato di diritto. Tuttavia sembra proprio che la scelta dell'ammodernamento dell'aeroporto già esistente, quello di Nantes Atlantique, sia ormai presa. Scusate. La zona di Notre-Dame-des-Landes era occupata da ormai 10 anni da contadini allevatori supportati da centinaia di attivisti che avevano creato la Zone à défendre, ZAD, per impedire con tutti i mezzi l'ennesima violenza sui territori in nome del profitto. Nel 2012 il governo francese aveva tentato una prova di forza inviando centinaia di agenti per sgomberare gli occupanti, trovando una strenua resistenza. Un corteo di decine di migliaia di persone aveva poi permesso di occupare di nuovo la ZAD e ricostruire le case distrutte dalla furia della polizia. Il primo ministro ha ora annunciato anche il ritorno alla legalità, chiedendo la dipartita degli occupanti dalla ZAD, la liberazione delle strade e minacciando lo sgombero. Già da qualche settimana sembrerebbe che mezzi di polizia e gendarmerie stiano confluendo verso Nantes. Anche se la decisione del governo non era scontata, in realtà questo scenario era già prevedibile negli ultimi mesi. Infatti, a inizio febbraio scadrà la dichiarazione di utilità pubblica sulle zone del futuro aeroporto, indispensabile per la continuazione del progetto. In previsione di questo rinnovamento, il governo aveva convocato degli esperti che per la prima volta dovevano prendere in conto tutte le opzioni possibili, anche la famosa opzione zero, quella di non realizzare la grande opera. Da allora sempre di più il problema mediatico si era spostato dalla necessità di costruire un aeroporto alla necessità di evacuare la ZAD, territorio in mano ai ribelli in lotta contro la Repubblica. In previsione, il movimento aveva già lanciato l'appello per una grande giornata di mobilitazione il 10 febbraio per ribadire la propria intenzione di restare sul posto. Nel comunicato di annuncio della fine del progetto, il movimento ringrazia tutti quelli che hanno partecipato e permesso questa vittoria storica, ribadisce le rivendicazioni che chiedono il ritorno dei contadini espropriati sulle loro terre, il rifiuto dell'espulsione di chi è venuto ad abitare sulla zona per difendere il territorio e la volontà di prendere in carico collettivamente sul lungo termine le terre della ZAD, rifiutandone il controllo da parte delle istituzioni e rivendicando il potere continuando a far vivere questo spazio di esperimento sociale, ambientale e agricolo. Scusate, ho letto veramente non rivendicando il potere, che sembrava una cosa un po' maoista, rivendicando di poter continuare a far vivere questo spazio. Allora, feste, presidi e cortei sono previste in molte città francesi questa sera, mentre vari commenti ricordano il fallimento del tentativo di evacuare la ZAD nel 2012 e promettono di raddoppiare la resistenza in caso di nuovo intervento della gendarmerie. E poi InfoOut cita da Nantes Révolté, che è una pagina Facebook che raccoglie mobilitazioni, interventi e controinformazioni sui movimenti di Nantes, e cita quello che hanno scritto loro in seguito alla notizia. 50 anni di lotta, 10 anni di occupazione dell'area, di manifestazioni memorabili, decine di migliaia di persone, contadini, cittadini, occupanti, giovani e meno giovani, rivoltosi e non, che camminano insieme per le strade di Nantes o per i sentieri di Notre-Dame-des-Landes. Di risa e di pianti, di battaglie barricate nei boschi, di giornate di ricostruzione nel fango, di incontri e notti di festa, di culture che alimentano le lotte, di decine di comitati locali, di minacce e sostegno e alla fine la vittoria. Il governo abbandona ufficialmente il progetto di costruzione dell'aeroporto. Ovviamente, la minaccia di uno sgombero parziale incombe sempre sulla ZAD. I media si affrettano ad offuscare la vittoria e il governo cercherà di punire le lotte, mostrando davanti alle telecamere la fermezza e l'autorità che va blaterando da mesi in TV. Ad esempio, mettendo in atto incursioni poliziesche, inutili quanto pericolose, sulla zona. Ma per la prima volta da tanto, troppo tempo, una mobilitazione ha messo in scacco il governo in Francia. Non è solo il successo di Notre-Dame-des-Landes, è un segnale per tutti, per quelli e quelle che lottano, qui come altrove, e in particolare per quanti e quanto lottano contro i progetti che distruggono i territori. Vincere è possibile. Non sono sempre le multinazionali e la loro sbirraglia a portarle a casa alla fine. L'abbandono del progetto di costruzione dell'aeroporto è una vittoria storica. Questo ovviamente è anche prevedibile, resoconto, contento e anche però un po' preoccupato di quello che succederà in futuro, anche se insomma chiaramente la notizia di questa enorme portata, di questa enorme vittoria dà fiducia per il futuro. E invece ora andiamo a sentire quello che dice sempre Radio Onda d'Urto, di nuovo su questa storia, notizia sempre scritta sempre il 17, Francia, il governo abbandona il progetto dell'aeroporto di Nantes. Dopo una lotta durata 50 anni, il governo francese ha annunciato l'abbandono del progetto del nuovo mega aeroporto di Nantes. La zona di Notre-Dame-des-Landes era occupata da ormai 10 anni da contadini e allevatori supportati da centinaia di attivisti che avevano creato la Zone à défendre ZAD per impedire l'ennesima violenza sui territori in nome del profitto. Nel 2012 il governo francese aveva tentato una prova di forza inviando centinaia di agenti per sgomberare gli occupanti, trovando una strenua resistenza. Un corteo di decine di migliaia di persone aveva poi permesso di occupare di nuovo la ZAD e ricostruire le case distrutte dalla furia della polizia. Resta ora l'incognita su cosa ne sarà degli occupanti che hanno osato sfidare e battere lo Stato francese, subissati di processi e repressione. La soddisfazione però è forte, come ricorda il collettivo Nantes Révolté. E qui, vabbè, cita di nuovo il pezzetto scritto da Nantes Révolté che vi abbiamo letto in precedenza. Ma è davvero finita l'epopea della ZAD di Nantes, e così chiude con poi una intervista al corrispondente Radio Onda d'Urto dalla Francia, Enrico Riboni, che vi potete ascoltare o scaricare sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org. In realtà, questo è quello che si chiedono un po' tutti, giustamente. Tra l'altro, leggere queste notizie ci ricorda, penso, un po' a tutti noi italiani da vicino, le lotte in Val di Susa, lo sgombero della Maddalena e insomma tutte le lotte in quei territori, ma anche tutti gli altri, le altre lotte negli altri territori che vedono e hanno visto vicende simili. E qui a Firenze ovviamente non può non venirci in mente la lotta contro il nuovo aeroporto nella piana di Sesto e Campi, e le lotte contro l'inceneritore e contro la devastazione di quel territorio. Quindi insomma è chiaro che questa è una vittoria per tutti e un esempio che speriamo di poter seguire, però resta il cosa succederà di queste terre. Vuoi aggiungere qualcosa anche te? Cosa ne sarà della ZAD, ci chiediamo. Questa è la grande domanda. Beh, sicuramente è interessante vedere che sono uscite alcune rivendicazioni anche rispetto al rimanere sul territorio e appunto continuare quel progetto di autogestione che ha delle prospettive comunitarie, di anche autosufficienza alimentare. Comunque la ZAD, oltre che un'avanguardia di lotta, è anche un'avanguardia delle forme della pratica del vivere in assenza dello Stato, che poi è il punto focale del motivo per cui, nonostante il progetto sia stato ritirato ad oggi, lo Stato francese è pronto ad intervenire ed è determinato ad intervenire, perché non è tollerabile per loro avere una porzione di territorio che non è neanche tanto piccola, perché la ZAD è un'area decisamente più grande di quella che deve essere la Maddalena o di quello che può essere un piccolo quartiere. Si parla di un territorio decisamente vasto. Abbiamo da uno dei siti di movimento della ZAD il comunicato dell'assemblea fatta dal movimento il giorno dopo? Sì, il giorno dopo, il 18, che è stato ritirato il progetto. Che ci dice, si prova a fare una traduzione veloce? Sì, al volo. Che con l'abbandono dell'aeroporto in Notre-Dame-des-Landes ci siamo trovati di fronte a un momento importante per il nostro divenire comune. Fin tanto che l'avvenire di questo territorio è stato l'oggetto di fantasmi mediatici. Sì, dicono. Qui ci... Pensavamo di far meglio. Sì, ci dobbiamo confrontare sul nostro avvenire e l'insieme dei movimenti avanza concretamente su questa costruzione, sulla costruzione di questo nuovo avvenire di cosa sarà di questa zona. Ok, ci... Ok, microfono. Vai. Ci appoggiamo su 10 anni di pratiche comuni, assemblee, riunioni, attività agricole, vita quotidiana, organizzazione di eventi, eccetera, e abbiamo costruito una ricerca di consenso che è alla base del nostro funzionamento. La ricerca del consenso penso intendano proprio il consenso di tipo assembleare. Sì, assembleare sociale, perché comunque la ZAD ha la gran particolarità che appunto è anche simile alla Val di Susa, che c'è un grosso scambio fra quelli che sono militanti, attivisti, siano essi ecologisti o zadist, che è un nuovo termine nato in Francia, con appunto la cittadinanza del luogo. Cioè anche tutta queste forme contadine sono andate in realtà a rivalorizzare la storia di quel territorio, perché si parla di un'area che già era agricola e quindi ha dato, diciamo, anche una nuova vita alla tradizione locale e ha ovviamente raccolto il consenso della popolazione in cui era. Continuando, il nostro lavoro di riflessione, di scambio è confluito nel 2015 in un accordo in 6 punti che sono che noi difendiamo collettivamente anche oggi. Sì. E, diciamo, fino al... Sì, da molti mesi. L'assemblea... Desusage, penso, intendono sì. Di chi ha usato questo posto. Cioè di... Sì, l'assemblea di chi lo vive. Sì, esatto. ci permette di organizzarsi su diversi temi. Mm-hmm. E quindi sono l'ipotesi, il primo tema, l'ipotesi sull'avvenire, sì, che ci siano forme giuridiche possibili per questo territorio, esatto. Cioè sì, che ipotesi legali, diciamo, esatto, ipotesi. Su come possa venire trasformato questo territorio. Le funzioni, no, in effetti non ho idea di cosa voglia dire, lo cerchiamo. Ok, probabilmente il territorio, no, comunque. Sì, no, comunque vabbè, sì, è sostanzialmente la possibilità di trovare degli usi, la condivisione, lo statuto, quindi darsi una forma comune di tipo comunitario, cioè un collettivo. Esatto. Ora poi non so come le funzioni, come lo traducono. La gestione dei conflitti interni con l'esterno, quindi... Ah, ok, forme ufficiali, organismi che comunichino all'esterno, immagino si dica. Sì, comunità vicine, organismi che comunichino con loro, sì. L'habitat, l'agricoltura e le comuni che gestiamo, cioè quindi poi di fatto cosa fare con le attività che già esistono e l'ambiente, l'agricoltura, okay. È quello di cui si occupano normalmente lì alla SAD. E il comunicato finisce dicendo che ci sarà dei dibattiti e appunto dei lavori per arrivare a una formazione dettagliata del progetto, perché appunto siamo di fronte a un cambiamento, cioè una prosecuzione di quello è stato il progetto finora alla ZAD, però di fronte anche a cambiamenti notevoli. E sì, dice giustamente abbiamo bisogno di tempo per trovare delle formule da mettere in atto, cioè chiaramente secondo me non si aspettavano manco loro di vincere, quindi a questo punto tocca decidere cosa fare, quali sono le prossime mosse. Esatto. Anche se appunto il governo francese non perde tempo e già dichiara abbastanza guerra a questa comunità, vedremo come se la gestiranno. Bene, io direi siamo un po' in ritardo e quindi passerei. Lunga vita alla ZAD. Lunga vita, lunghissima vita alla ZAD. Ve ne daremo conto poi anche delle prossime mosse, di cosa succederà poi in seguito. E vi passerei adesso invece a giusto, tornerei in Italia con la purtroppo notizia abbastanza pesante, ovvero un'aggressione di Casa Pound a Genova a gruppi di antifascisti. Citiamo di nuovo da InfoOut: Genova, Casa Pound attacca gruppo di antifascisti a coltellate. Allora vi leggo l'articolo. Scusate, sì. Stavo cercando. Ecco, 14 gennaio 2018. Mentre, come impongono i migliori intrallazzi della politica, Casa Pound ottiene a Genova il suo primo consigliere municipale grazie a un cambio di casacca in corso di mandato da parte di un politico della Lega, un gruppo di antifascisti intenti ad attaccare manifesti in piazza Tommaseo è stato aggredito a coltellate. In superiorità numerica, con bottiglie e lame, una trentina di militanti di Casa Pound si sono scagliati contro la decina di presenti. Un ragazzo è stato accoltellato alla schiena a due riprese. Segue il racconto dell'accaduto dalla pagina di Genova Antifascista, che vi andiamo a leggere. Nella tarda serata di venerdì 12 gennaio, un gruppo di antifascisti e antifasciste, intenti ad affiggere manifesti nella zona di Piazza Tommaseo, è stato improvvisamente aggredito da circa 30 fascisti militanti appartenenti a Casa Pound, usciti dalla loro sede di via Montevideo. Brandivano bottiglie, cinghie e coltelli. Nel breve scontro che si è svolto, un compagno ha corso per difendere un altro, è stato circondato e colpito due volte. Il coltello ha oltrepassato gli indumenti, causando una ferita alla schiena. I fascisti, maestri della menzogna e vigliaccheria, stanno già producendo ricostruzioni assurde riguardo alla dinamica, parlando di assalti al covo di Casa Pound e a fantomatiche violenze sulle donne. C'è sempre qualche donna da difendere, da tirare in ballo. Questi sono i fascisti del terzo millennio, cambiano nome, si spacciano da onlus e sfruttando lo sdoganamento in atto da anni di partiti del centro-sinistra e dell'appoggio delle destre, vorrebbero anche presentarsi alle prossime elezioni. Ma la verità è una, i fascisti agiscono sempre e soltanto in un modo, alle spalle e con le lame. Anche questa volta hanno mostrato il loro vero volto, anche questa volta ci ritroveremo nelle strade. Solidarietà ai nostri compagni aggrediti, non un passo indietro. Questo era il comunicato di Genova Antifascista. Sì, andiamo avanti. Mi sono ricordata che tra l'altro non abbiamo fatto sentire il brano che avevamo preparato per Notre Dame de Landes. Ve lo faremo sentire dopo, giuro. Intanto possiamo ricordare che c'è un corteo il 3 febbraio chiamato da Genova Antifascista riguardo a questo episodio. Appunto, invitiamo tutti a partecipare, a sostenere. Sì, esatto. Infatti in piazza dei Ferrari, 3 febbraio, vi leggiamo il comunicato sempre dell'Assemblea Antifascista Genovese che invita a questo corteo, che tra l'altro era già stato convocato. Sì, esatto, perché a Genova da qualche mese comunque c'è, si è aperta anche la questione del fascismo in città, perché si è visto uno sdoganamento delle amministrazioni legate alle destre che stanno sdoganando il fascismo in una città in cui a livello popolare esiste ancora in parte, più che da altre parti, un sentimento antifascista diretto, cioè che non li vuole, non che dice non sono fascista. Semplicemente persone che scendono in strada per dire noi non vogliamo i fascisti, abbiamo visto, penso in tanti abbiamo visto i video anche passati a Repubblica delle signore che cantano Bella Ciao in piazza, sono molto carini. Andiamo col comunicato, comunicato dell'assemblea antifascista. Né santi né eroi, in merito all'accoltellamento del nostro compagno e della strumentalizzazione mediatica che chi per intendersi palesemente, per interessi palesemente elettorali sta utilizzando per rifarsi un volto con l'antifascismo. Ribadiamo che il nostro antifascismo è fuori dai salotti, è nelle strade con i nostri compagni e le nostre compagne. Questa lotta di umanità e resistenza che media e partiti borghesi hanno sempre fatto passare come guerra fra bande per infangare la verità, noi la stiamo pagando con denunce e aggressioni. Abbiamo perso tanti compagni che l'infamia fascista ha ucciso. Noi siamo i compagni e le compagne di Carlo, Dax, Valerio, Auro, Renato, Nicola, Emmanuel, Sandrin. Siamo le compagne e compagni di tutti i migranti morti nel Mediterraneo e per attraversare le frontiere. Anche loro vivono nella nostra lotta. La retorica sulla legalità, come la criminalizzazione e la violenza, non ci interessa. Preferiamo dire le cose come stanno, cercare le responsabilità dello sdoganamento delle destre e di chi per anni, intorno a un fantomatico dibattito democratico, ha fatto passare i fascisti in TV, gli ha offerto le sedi e li finanzia. Non ci stupiamo perché sappiamo che questi si muovono solo per i loro interessi e per questo noi siamo altro. Intendiamo dire forte e chiaro che quello che è successo a Genova non è un episodio isolato. I compagni e le compagne delle altre città e paesi lo vivono quotidianamente da anni. Questa attenzione mediatica è opportunistica. Rifiutiamo i vostri riflettori, la vostra finta indignazione, non ci strumentalizzerete per i vostri interessi politici. Non siete e mai sarete i nostri interlocutori. Continueremo a contrastare le politiche fasciste di governo, dal decreto Minniti Orlando al Jobs Act, alla buona scuola, agli accordi con la Libia. Continueremo a lottare contro l'odio, l'omofobia, la xenofobia, la guerra fra poveri e il neofascismo promuove. Noi siamo altro. Ci vediamo in Piazza dei Ferrari il 3 febbraio, non un passo indietro. Esatto, e questo era il comunicato e gli altri appuntamenti erano ormai passato il sabato 20 gennaio, c'era un presidio in Piazza Limonda per rispondere subito alle aggressioni fasciste, poi mercoledì 31 gennaio Piazza dei Ferrari, assemblea cittadina e poi sabato 3 febbraio appunto come vi abbiamo detto alle 15 sempre in Piazza dei Ferrari corteo antifascista. Questo era quello che riguarda questa aggressione e vi facciamo adesso ascoltare col Merela la cuna che prima mi sono dimenticata, facciamo ascoltare un pezzo scritto proprio in sostegno agli sgomberati in Notre Dame des Landes, scritto nel 2012, quindi subito a ridosso, di Plumfit Philomic, il pezzo si intitola Non avvisi ora al port, produzione Dava Mix e Plum. E questo direi che può servire un po' per un filo rosso sia per lo sgombero della crepa, sia per la vittoria a Notre Dame des Landes e sia per sostegno agli aggrediti antifascisti. Il progetto d'aeroporto, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aeroporto. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent bah, pourquoi ils veulent pas d'aeroporto? Il y en a un déjà. Le progetto d'aeroporto de Notre Dame des Landes, c'est un vieux projet, quoi. 1967, un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Bienvenue à Notre-Dame-des-Landes, sur ce terrain qui se marchande, une zone qu'on réprimande pour un aéroport sur commande. Hollande et toute sa clique ressortent ce projet des cartons, un chef-d'œuvre aéronautique afin de redorer leur blason. Mais sur place, ça s'organise, lutte pour la terre face au béton. CRS qui brutalise, qui matraque les frangins bretons. Gaz lacrymo insistant, mais le mouvement se consolide. Agriculteurs et résistants ne lâcheront rien qu'on se le dise. Doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile. est dépassé. Paysans contre placés, plan agricole contre carré, voir ce projet contrepassé, même si c'est âme contre pavé. Hollande a dit l'écologie au cœur du parti socialiste. Putain, elle devient grosse la liste des mensonges qu'on emmagasine. N'éteint même pas l'autonomie, l'enterre sous nappe de béton. Asphyxie sous kérosène, toutes ces terres que nous aimons. Ainsi c'est toujours nous contre eux, face à Notre-Dame des Landes. La force du nombre aujourd'hui est contre d'autres drames démons. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. L'État qui se plie sous la pression d'une avide multinationale dans leur cynique intervention abusive et immorale. Un bocage à préserver contre une piste d'atterrissage pour le profit de quelques-uns. La nature est prise en otage. Il n'arrête la force d'un peuple rallié par une cause commune. Y'a commune, non connue, dans la boucle de vos abus. L'État vacille en featuring, une nouvelle fois aux prises du fils. Et n'espère pas que les résistants acquièrent le rôle de figurine. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potager, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Une nouvelle maison est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. À grand renfort de Fort de l'Or qui porte atteinte aux droits de l'homme sur le terrain de la discorde, résonne, sonne le glas du dialogue. Nous parlons de droits, si méprends, détruisent nos toits, soit qu'on se rende. Ils ont fait le choix, pas nous entendre, veulent empêcher nos voix de s'étendre. De monter, on va pas virer, reste des terres, on va pas se plier. Pour moi, traque, ne faut pas flipper, de crier, on va pas se priver. Dialogue que sous, on veut pas de repos, voir vos travaux expropriés. L'État Vinci sont avertis, ça va nos rages vont décoller. De Toulouse à Nantes. On les aura. Vous êtes pas résistance alternative. Eccoci, eccoci tornati e a questo punto non ci resta che proseguire e andare in Siria, dove Erdogan ha attaccato il cantone di Afrin e poi di fatto, come titola Blackout, articolo di Radio Blackout, per colpire la rivoluzione della Siria del Nord. Articolo che vi leggiamo appunto tratto da Radio Blackout del 17 gennaio, poi aggiornato il 19. Il cantone di Afrin è una parte di territorio liberato della Siria del Nord che da tempo si trova circondato e minacciato dalle forze turche e islamiste. Rappresenta una zona strategica dal punto di vista militare, politico ed economico. Il presidente turco Erdogan vuole colpirlo per colpire tutta la rivoluzione che sta investendo la Siria del Nord. La sua unificazione al resto dei territori della federazione renderebbe infatti l'intera area un territorio libero e democratico. Negli ultimi giorni le minacce che da mesi Erdogan rivolge al cantone di Afrin hanno iniziato a concretizzarsi in un'escalation militare ai confini del cantone. Il presidente turco ha dichiarato che l'operazione di invasione è iniziata e sono stati portati attacchi da diversi fronti. Ad Afrin ci si prepara quindi a resistere per difendere strenuamente il progetto rivoluzionario della Siria del Nord, in una battaglia che ormai viene definita come una nuova Kobane. Su Radio Blackout l'articolo prosegue in realtà con una corrispondenza audio di Jacopo, compagno torinese che sta partecipando alla rivoluzione nella Confederazione della Siria del Nord e che ha deciso di spostarsi ad Afrin alla luce di questo momento di forte minaccia esterna. Corrispondenza audio che, ahimè, è un po' troppo lunga per i nostri tempi, sono circa 8 minuti, non facciamo in tempo a farvela ascoltare e quindi vi invitiamo ad andare ad ascoltarvela o scaricarvela in podcast su radioblackout.org. E aggiungiamo qualcos'altro? Ma beh, possiamo di sicuro pubblicizzare quei momenti di solidarietà, che è l'unica cosa probabilmente efficace, oltre alla controinformazione, che si può fare dall'Italia a sostegno della rivoluzione del Rojava. E ieri a Firenze c'è stato un presidio, non sappiamo neanche bene come è andato, perché personalmente nessuno di noi era lì. Eh no. È un stato... presidio sotto l'ambasciata turca, appunto per andare a segnalare e insomma palesare questo attacco spudorato, perché ovviamente il Rojava è territorio siriano, quindi non è una pura invasione rispetto ai curdi siriani, mentre i curdi turchi sono già invasi dall'esercito turco da anni, e boh, niente di più. Sì. Vi parleremo poi più approfonditamente di quello che succede anche nelle prossime rassegne stampa, diciamo che questo è un po' un inizio e vediamo poi cosa ci riserverà il futuro. Allora, ci rimane un articolo veloce da leggervi, che è quello che sta succedendo in Tunisia. Invece citiamo di nuovo Radio Onda d'Urto. Tunisia, ancora proteste e scontri durante e oltre l'anniversario della rivoluzione. Articolo scritto il 15 gennaio. Ancora proteste in Tunisia al termine di una giornata, quella di ieri, 14 gennaio, che ha visto migliaia di persone in strada nel 7° anniversario della cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, giorno in cui il dittatore Ben Ali fuggiva dal paese e riparava in Arabia Saudita. Nella capitale Tunisi, nel quartiere di Kram, giovani manifestanti hanno dato fuoco a pneumatici e tentato l'esproprio di un centro commerciale, bloccato dalla polizia, che è intervenuta con fitto lancio di lacrimogeni. Anche a Ferlana, nuove decise proteste di massa. 8 le persone arrestate, mentre il bilancio complessivo di oltre una settimana di manifestazioni e repressione con polizia ed esercito schierati dal governo parla di circa 800 fermi. Vi ricordiamo, questo è un articolo di qualche giorno fa, del 15 gennaio, quindi il bilancio temo che sia aumentato purtroppo. Il presidente tunisino Essebsi, nel tentativo di arginare le proteste popolari, ha annunciato una serie di misure a favore delle famiglie bisognose, bontà sua, da circa 70 milioni di dinari tunisini, circa 23,5 milioni di euro. La promessa di ulteriori aiuti destinati alla creazione di un fondo di dignità per i più deboli e la pubblicazione della lista definitiva dei martiri e dei feriti della rivoluzione del 2011 entro la fine del mese di marzo. Anche qui intervista audio con il giornalista tunisino Saber Yacoubi, e quindi vi invito ad andarvela ad ascoltare sempre sul sito, questa volta di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org. Farei a questo punto, secondo me ce la facciamo a leggere anche l'ultimo articolo che avevamo pensato per questa rassegna stampa, ovvero un articolo tratto da Internazionale, da China Files. China Files ci parla, andiamo quindi in Cina, ci spostiamo drasticamente, e ci parla di quello che sta succedendo dal punto di vista di urbanizzazione devastante in Cina, negli ambienti rurali e naturali. Cina, il business dei rifugiati dello smog che spazza via i villaggi e ambienti naturali. Prendere un treno, un aereo, una nave e andarsene via, lontano dalle grandi città. La nuova classe media cinese è satura degli ambienti malsani delle megalopoli e cerca in luoghi ancora poco toccati dallo sviluppo urbano una boccata d'aria fresca, mentre l'aria delle città d'inverno si colora di grigio smog. Alcune località del sud della Cina, come Yingong, chissà come si legge, nello Yunnan, al confine con Laos e Myanmar, con la sua natura ricca, il clima tropicale e l'aria pulita, o Hoian, una isola del mar della Cina meridionale, sono oggi tra i luoghi preferiti per questi rifugiati dello smog. Ma l'arrivo di un numero sempre maggiore di persone sta mettendo sotto pressione quegli ambienti naturali incontaminati e ha attirato imprenditori immobiliari e palazzinari. Oggi, io proprio con lo smog ci starei bene. Oggi la skyline di Yingyong è cambiata. Negli ultimi mesi sono spuntati nuovi complessi residenziali e commerciali e per far spazio, in alcuni casi, sono stati demoliti interi villaggi dell'etnia Dai, una minoranza del sud della Cina. Hainan è ormai diventata la Florida del paese di mezzo. Come lo Stato americano, anche l'isola cinese attrae ogni inverno centinaia di migliaia di pensionati che arrivano qui a trascorrere l'inverno. Più della metà di loro viene dalle grandi e inquinate città del nord-est del paese. Qualcuno rimane anche oltre la stagione invernale. L'inquinamento, i lavoratori migranti e il freddo hanno reso Pechino invivibile, ha spiegato al New York Times a dicembre scorso Sheng Shengmin, pensionato 67enne, che ha deciso di mettere radici a Sanya, capitale di questa appendice tropicale della Cina. Una scelta fatta non solo per il bel tempo o il mare, per i nati tra 50 e 60... per i nati tra gli anni 50 e 60 come Sheng, la paura è anche quella di diventare un peso di troppo per i loro figli unici. Quando vai in pensione con abbastanza denaro da parte non torni più nella grande città. Natura e aria pulita però non attirano soltanto i vacanzieri invernali ultra sessantenni. La città è un ambiente sempre più ostico anche per i giovani. Il costo della vita e l'ambiente malsano sono fattori che spingono molti a cercare altre vie di realizzazione. A Yingong c'è un'altra folta comunità di rifugiati per lo smog. Non mi manca la vita in città, ha dichiarato al Guardian il quarantenne Ji Feng, ex dipendente della China Development Bank. Da circa un anno vive qui con la moglie 32enne. Nella vita della metropoli, Ji ha mantenuto soltanto il lavoro, vendere da broker, azioni e futures. Che bello. E, come altre centinaia di pechinesi, Ji è venuto a Yingong all'inizio del 2017, era il periodo della Airpocalypse, l'apocalisse dell'aria, come l'hanno battezzato i media anglofoni, un periodo di smog intenso che ha caratterizzato per settimane il nord-est della Cina. Spinto dai prezzi bassi degli immobili, ha acquistato una casa e poco dopo si è lasciato definitivamente alle spalle la sua vecchia vita nella capitale e soprattutto il sovraffollamento di Pechino a irritarlo. Ora che viviamo qui, ha spiegato ancora al quotidiano britannico, le probabilità che noi ritorniamo in città sono molto scarse e credo che la vita sia meglio in provincia. E l'articolo continua dicendo, per il momento almeno, molti imprenditori hanno infatti trasformato in un business il recente boom di nuovi residenti provenienti dalle città, facendo trovare loro gli agi della grande metropoli anche in questi luoghi. E se da un lato sono nati grattacieli e aree residenziali, dall'altro vanno sparendo gli ambienti naturali. Di più, la città di Yingong si trova sulla tratta ferroviaria ad alta velocità, oggi in costruzione, progettata per collegare il sud della Cina con il Laos e probabilmente Singapore. Un ambizioso progetto infrastrutturale destinato a cambiare la faccia della regione. Anche per questo oggi ai margini della città si intravedono i profili di edifici nuovi e rari fino a pochi anni fa, i cementifici. Articolo di Marco Zappa pubblicato anche sul Fatto Quotidiano Online, che però abbiamo ripreso da China Files. Con questo io direi che chiudiamo qua, perché altrimenti ritardiamo troppo. Vi invito a continuare a restare in ascolto di Radio Wombat. Ovviamente vi ricordo i nostri social Wombat, il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net, e vi lasciamo direi con un ultimo pezzo, che è un pezzo di un gruppo ormai penso non esistano più, ma hanno fatto il loro tempo purtroppo, però gruppo siriano molto attivo e combattivo, gli Hello Psychaleppo, che hanno avuto un bel po' di cose da dire sulla Siria soprattutto degli anni inizio 2000, diciamo, in realtà, e quindi chissà cosa avrebbero da dire oggi. Il pezzo si intitola Highest Improvise. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima rassegna lunedì prossimo, sempre a mezzogiorno, si spera più puntuali di oggi. Ciao, a presto, rimanete in linea con cosa c'è. Thank you. Thank you.